got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questa trasmissione di Radio 24 che vi porta intorno alla tavola per parlare ogni volta dell'Italia che cambia attraverso la presenza e grazie all'arricchimento di persone che hanno origini straniere. Questa sera siamo a Milano, una cena milanese e anche in parte africana, perché siamo con uno stilista originario della Costa d'Avorio che lavora però a Milano. Io il do benvenuto a Ben Ducouré. Buonasera. Grazie Ben per essere con noi questa sera, un giovane stilista della Costa d'Avorio che ha coronato il suo sogno legato alla moda, realizzare e vendere quindi le proprie collezioni in Italia, in Francia, in Costa d'Avorio. Ben, vorremmo sapere qualcosa di più di lei e del suo lavoro, ma prima di tutto io so che questa sera per questa cena a Radio 24 lei ci ha portato un piatto, no? Sì. Che piatto è? Ma in realtà io vi ho portato un piatto milanese che a me piace tantissimo, visto che vivo qua da un po' di tempo, per cui ho quasi dimenticato la cucina africana, cioè praticamente del mio paese che è la Costa d'Avorio. Perciò io preferisco molto il risotto alla milanese, che mi lega un po' alla Costa d'Avorio dove noi mangiamo moltissimo il riso. Perché le ricorda la cucina della Costa d'Avorio per lo zafferano, per la presenza dello zafferano o del riso? Vabbè, entrambe due le cose. Uno, la prima, lo zafferano, che visto che io sono nato in una parte della Costa d'Avorio che è un po' la savana, e quindi spesso quando c'è quella stagione secca è tutto giallo, quindi c'è questo ricordo, cioè evoca quei ricordi. Quindi un ricordo cromatico quasi. Bravissima. Del suo paese. E perciò, e poi il riso perché è il piatto quasi nazionale o preferito da noi. Quindi risotto allo zafferano, ma è capace di cucinarlo? Lo cucina personalmente oppure se lo fa cucinare? Ah no, lo faccio, ho imparato, è la prima cosa che ho imparato a cucinare. Tell them what. Dobbiamo dire che Ben Ducouré è uno stilista ormai affermato a Milano, al suo atelier, no? Nel centro di Milano. Poi ci racconterà anche dove ha lavorato in Costa d'Avorio, inizialmente come sarto in una bottega artigiana, poi una boutique in una città non lontana dalla capitale della Costa d'Avorio, poi è volato a Parigi, ha lavorato in laboratori, ha fatto la sua prima collezione e poi si è spostato stato in Italia. Quindi una lunga storia di lavoro e di migrazione. Quando è arrivato Ben in Italia? Stiamo parlando veramente da più di una ventina, 24, insomma non mi ricordo neanche più, devo dire la verità. Talmente più di 20 anni? Sì, più di 20 anni che vivo da voi, che oramai è anche casa mia. Quindi un'emigrazione per lavoro in tempi in cui forse non era così frequente? Sì. Come è nata la sua passione per la moda e quando è nata? Nei miei ricordi credo che sia nata da quando ero già ragazzino, perché i miei genitori, cioè materni, loro erano artigiani come si dice, tessuti, no? Facevano questi disegni su tessuti, li mettevano nell'indigo, cioè nei questi colori tradizionali tipo batik, e sono nato proprio in mezzo a loro così. E poi man mano che andavo avanti ho capito che dovevo imparare un mestiere, che era comunque la prima cosa che mi è venuta in mente, era di fare il sarto, perché mi riavvicinava ancora a questi profumi. E quindi ha iniziato come sarto, no? Come apprendista sarto in una bottega artigiana della sua città. Qual è la sua città e com'era questa città quando lei era un ragazzo? Allora, la mia città si chiama Agboville ed è vicino ad Abidjan, non tanto lontano ad Abidjan. Quindi non lontano dalla capitale? Sì. Ah, la mia città era, dunque, che amo tantissimo, cioè, ho sempre amato questa città, cioè, ho dei ricordi, anzi lei mi sta facendo ricordare ancora di più. E secondo me era bellissimo, no? Era quei momenti, cioè, eravamo, almeno io, pensieroso. Quando e come ha deciso di andarsene? Allora, io ho deciso già dalla Costa d'Avorio, ho pensato prima che devo veramente venire a Parigi, poi ho lavorato a Parigi, come lei sa già, di tutto quello che ho fatto, e poi da lì sentivo parlare anche dall'Italia, no? Anzi, dalla Costa d'Avorio già mi parlavano dell'Italia, della moda, di tutte queste cose qua, e ho voluto veramente capire un po' di più, quindi mi sono trasferito qua in Italia, di cui ho anche imparato in un'altra scuola, fatto la scuola. Quindi ha ricominciato a studiare, si è iscritto a una scuola di modellistica, immagino, di cucito. Sì, di cucito proprio, e ho fatto un percorso bellissimo, e con, almeno all'epoca, con i miei compagni di scuola mi hanno davvero preso, mi hanno accolto benissimo. Compagni di scuola, immagino, italiani? Italiani, sì, sono stati bravissimi. Io devo dire, non ho mai, questo le dico sinceramente, anche ora, cioè anche dove sono adesso, sono protetti da tutti quelli che sono qua. Non so come spiegarti, ma forse... Cioè non ha mai subito un pregiudizio, un atteggiamento negativo? Assolutamente, glielo posso garantire. È stata un'esperienza fortunata per lei, quindi incontri positivi con persone che non l'hanno mai fatta sentire in difficoltà in qualche maniera, non c'è stato pregiudizio. Però lei lavora a Milano, no? La capitale del fashion, in un ambiente direi molto aperto, e forse questo ha aiutato. a Milano ha avuto esperienze anche di moda importante, c'è stata la sua prima grande collezione. È difficilissimo, non dico di no, è molto difficile, specialmente per chiunque, credo, non per la moda, per qualsiasi persona che si affaccia alla moda. No? Ho avuto tantissimo anche in quel lato molta fortuna. Io ho lavorato, specialmente la mia moda è sempre, no? Come faccio sempre dei mix. Io ho lavorato parecchio con un maestro giapponese che dipingeva dei tessuti, che dipinge dei tessuti di kimono. Praticamente sono delle opere d'arte, poi mi ha passato per fare delle collezioni, di cui anche tuttora lavoro con loro. Allora, la interrompo perché questa mix, questo incontro tra l'Africa, l'Italia e il Giappone è molto interessante e voglio capirne qualcosa di più. Ma proprio per capirne qualcosa di più dobbiamo fermarci un attimo perché c'è una pausa e torniamo tra pochissimo. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart. Risvegli. Pino. Vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of, that's the glory of. Questa sera siamo con Ben Ducurea, indovina chi viene a cena, uno stilista di origini ivoriane che è arrivato a Milano più di 20 anni fa e ci sta raccontando la sua esperienza, prima a Parigi, in Francia, poi in Italia come stilista. E ci stava raccontando, Ben, di questo incontro felice che lei ha avuto con la pittura su seta per kimono giapponese. Devo dire, un mix abbastanza singolare tra cultura africana, giapponese e italiana. Ed era così. In realtà questo era proprio il punto, no? Cioè proprio il nucleo dell'associazione alla quale noi siamo partiti. E questo maestro giapponese che è di Okinawa, è veramente un grandissimo di questa arte, no? È giapponese. Quindi aveva chiesto a me se potevo usare i suoi tessuti, in effetti fare un mix tra diciamo i tessuti italiani nazionali, la seta, specialmente la seta italiana di Como, un po' l'africano per il colore e questa arte giapponese che comunque secondo me c'è anche lì qualcosa di africano, cioè nella sì, erano finissimi, no? Ma i colori comunque mi ricordavano in ogni caso l'Africa, ecco. quindi un mix che l'ha portata a un certo successo, perché ha portato a unire diversi tipi di creatività, uno sguardo contemporaneo, materiali pregiati, e quindi è stata un po' la cifra della sua caratterizzazione per quanto riguarda la moda, se capisco bene. Sì, sicuramente, ed è quello che io ho sempre cercato di fare, no? Cioè unire sempre questo modo di pensare, cioè la moda secondo me è quella, insomma, è un po' l'arte in questo caso, no? Ci aiuta a dialogare senza nessun pregiudizio, perché non avrei mai pensato in vita mia che un giapponese potesse pensare che io avrei fatto la sua collezione. Quindi in quel caso c'è veramente una forte, non so come posso spiegare, è fortissimo, perché anche quello grazie anche un po' all'Italia, perché io ero qua perché mi hanno accolto, cioè perché io sento qua che è il mio paese. A Zouglou on dit pas il faut danser, on dit faut libérer, on libère les gars, on libère, on libère, on libère, on tend les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête, Zouglou kata, Zouglou kata, Zouglou kata. L'essere arrivato 20 anni fa, quando l'emigrazione dall'Africa era un'eccezione, non era la regola, il fatto di occuparsi di moda, quindi in un ambiente aperto, e il fatto di lavorare e vivere a Milano, anche qui una città abbastanza multiculturale, abbia aiutato, magari in provincia, con altri lavori, in questi anni è un po' più difficile per i suoi connazionali, o no? Sì, sicuro, immagino. Le capita di incontrare ragazzi, uomini, donne arrivate ora dalla Costa d'Avorio? Sì, mi capita ogni tanto di incontrare, spesso, anzi li vado a trovare, perché comunque ho degli amici sempre connazionali, le amici sono sempre lì, quindi ci vediamo sempre, ne parliamo anche della situazione, e io comunque rifletto sempre su, ed è vero, no? Posso dire che non esiste questa storia razziale o questa cosa qua così, però io sto parlando di me personalmente, io non ho mai, non so, se faccio il conto, gli amici sono più italiani, quindi non lo so. Una storia quindi di integrazione positiva? Secondo me sì. Ben, com'è il suo rapporto oggi con la Costa d'Avorio? Ci torna? Ovviamente avrà i suoi parenti e amici lì. Sì, sicuro sì, ci torno, ci parlo sempre con loro, e non c'è assolutamente, ogni minuto, ogni sera li chiamo e parliamo tanto, mi sento già lì anche se parlando così con loro. Ho un bellissimo rapporto con la Costa d'Avorio, che è comunque il mio paese, mi piace tanto. Anche chi è rimasto in Costa d'Avorio? I genitori, immagino. Sì, sì, i genitori, tutti i fratelli, tutto, tutto lì. Purtroppo, che tipo di nostalgia coltiva per quel paese? A talvolta le nostalgie che noi raccogliamo in questa trasmissione sono legate agli odori, ai sapori, alla cucina, appunto. Per lei magari si tratterà forse di più di colori, immagini, tessuti. Penso che se ho così tanta nostalgia del mio paese, vuol dire che ho già finito di stare in Italia. Questa è la verità, almeno così penso io. Perciò non percepisco ancora quella nostalgia, quella cosa lì. Sì, è vero. Mentre parliamo, io guardavo le immagini delle spiagge della Costa d'Avorio, di cascate, sì, di bellissime foreste. Sì, e quindi pensavo, un posto bellissimo. Non nascondiamo, un posto anche con grosse difficoltà. Sentiamo parlare della Costa d'Avorio in Italia sempre e soltanto per rivolte, per situazioni di tensione, di mancato pagamento degli stipendi, di militari e ribelli che si scontrano. Quindi è un paese difficile, da cui molte persone scappano. Sicuro, quello sì, è vero. Anche io sento questa, queste informazioni, le vedo alla televisione perché comunque guardo sempre la TV della Costa d'Avorio per capire un po' come sono i movimenti. Ma nonostante tutto credo che anche lì, ad esempio, chiedono che se potevo andare a fare anche una sfilata, quindi c'è comunque, malgrado tutto, c'è un lato positivo in qualche modo. Perché la sua distribuzione dei suoi abiti, della sua moda, è anche in Costa d'Avorio. Anche sì, perciò, e quindi non è tutto così, voglio dire, no, questa oppressione forte che noi risentiamo, magari perché io non sono lì, perché un conto è stare qua a parlare né di questa cosa, un conto è vivere proprio sul terreno e sentirsi sulla pelle, quindi ha tutto un profumo diverso, per cui comunque su quello io ho la speranza che le cose andranno per bene per il nostro paese, anche se oggi è difficilissimo il suo percorso, no? Per trovare i suoi capi, le sue creazioni, dove dobbiamo andare? Allora, in questo momento qua io sono in via Salasco, al numero 25, dove i miei capi sono nel mio atelier. E poi io a Parigi e poi anche in Costa d'Avorio. La distribuzione a Milano è solo da me in questo momento. Ben, che cosa si augura per il suo futuro? Pensa che potrebbe dedicarsi a qualcosa di specifico che riguarda il suo paese? Questo sì, nel futuro, anzi, sto cercando di fare dei lavori, specialmente in Costa d'Avorio, sempre per più che altro una piccola scuola che stiamo cercando di mettere appunto per poter veramente aiutare quelli almeno del quartiere, si comincia così, a fare chi vuole affacciarsi a questo mestiere, dargli una mano a organizzare, insomma, aiutarli a fare qualcosa. Quindi una scuola per aiutare i giovani della Costa d'Avorio a diventare dei sarti. Sì, del mio paese proprio. Della sua città. Sì, della mia città, almeno quello, o se no nel quartiere proprio, per cui stiamo proprio studiando come fare per poter fare quello. Quando è stato l'ultima volta? Ah, l'ultima volta è 3 anni fa. Quindi periodicamente torna, anche se non con una frequenza importante. Ecco. Sì. O comunque un legame di questo genere, però c'è, il pensiero comunque è lì, no? Lontano, ma il pensiero è lì perché ci sentiamo, è quasi come se vivessi lì, no? Perché mi informano su qualsiasi cosa. Ben, prima di chiudere, torniamo al tema con cui abbiamo iniziato. Lei ci ha spiegato che ormai sta da così tanto tempo in Italia ed è così integrato e felice della sua esperienza italiana che addirittura il risotto alla milanese è il suo piatto preferito, ma noi la facciamo adesso tornare con il pensiero, con la mente alla sua infanzia. Qual era il piatto, il cibo che lei ricorda di quando era piccolo in Costa d'Avorio? Quel piatto era magico, nello stesso tempo, senza dire che è odioso, no? Il cibo, sai, bambini ogni tanto, no? Sì. È un cibo, è quasi come la polenta. In realtà si chiama in mandingo, almeno della Costa d'Avorio, cabatù, ed è mais, la farina di mais. È quasi come polenta, è bianca. È come un semolino, una polentina. Bravissima. E siccome era la cosa povera che, che si poteva permettere, quindi mangiavamo ogni giorno che e quasi veramente non ce la facevamo più, almeno i bambini. La Costa d'Avorio è una terra molto varia. Si va dai lidi costieri, lagune, uniche in Africa e ricca vegetazione, dalla foresta del sud e dell'ovest, alla savana, nella zona centrale e in quella settentrionale. La popolazione è composta quasi per la metà da genti provenienti da altre aree, perciò la Costa d'Avorio è un vero mosaico delle civiltà dell'Africa occidentale. La straordinaria ricchezza culturale si traduce ogni anno in un proliferare di feste e manifestazioni tradizionali che cambiano da regione a regione. La cucina della Costa d'Avorio varia al variare dell'area del paese in cui ci si trova, dunque dei prodotti della terra o del mare che costituiscono la base dell'alimentazione. Se al nord la cucina si fonda su cereali come il miglio e il sorgo e somiglia a quella dei vicini Mali e Burkina Faso, al sud la cucina si fonda su tuberi come la manioca e l'igname e su frutti come la banana plantain. Il piatto base della cucina del sud della Costa d'Avorio è il futù, un purè di manioca, igname o banana che viene accompagnato con diverse salse. La manioca è alla base di molti altri piatti, tra cui si distingue l'attieké, una sorta di couscous dal sapore leggermente più acidulo. La banana plantain, spesso, invece, è consumata fritta con il nome di alloco. Ovviamente, come tutti i paesi costieri, la Costa d'Avorio ha anche una tradizione di cucina del pesce. Nei tipici ristorantini all'aperto, che si chiamano makis, che come piccole macchie colorano le strade della città, si possono gustare piatti veloci come il pollo fritto. Le pietanze sono generalmente annaffiate con vino di palma. Mango, mandarini, melograni, frutto della passione e noci di cocco si trovano ovunque e possono essere consumati al naturale. Grazie a Ben Ducouré, stilista, che potete trovare a Milano. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie mille, buona serata a tutti, grazie. Ed è tutto per questa puntata, io ringrazio in regia Roberta Frisani, tutti voi all'ascolto di Radio 24 di Indovina chi viene a cena, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre su queste frequenze. Buona serata a tutti, ciao. You've got to give a little, that's the glory of